Oh, eccoci qui. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Indiradio, il programma di informazione indipendente, e questa volta non diremo occupato dal collettivo di gestione di Calabria Indimedia, semplicemente perché Indimedia Calabria è morta e non esiste più. Bene, e in questo appuntamento di oggi parleremo, della morte di Indimedia Calabria. Lo faremo con un sorriso, anche se siamo molto tristi per questo. Ma oltre a tutto ciò parleremo di un argomento a noi molto caro, cioè la monnezza. Ebbene sì, parleremo di monnezza, in particolare dell'emergenza rifiuti che vive l'intera regione Calabria. Poi parleremo di altre amenità, insomma, e soprattutto ci sarà questa sera una bella rubrica di figli di, la rubrica degli scleri, che questa sera vi diciamo che promette molto bene, quindi rimanete all'ascolto di Radio Transizione di Fase. Questa è Indie Radio, il programma di informazione indipendente, curato da chi non si sa ormai, ma esiste, quindi non sottilizziamo più di tanto. Mi dicono che zumpa, zumpa sì, perché in realtà dovete sapere che non lo sto facendo apposta. Vi dico semplicemente che non lo so perché zumpa, è colpa di Oddcast, ma è anche colpa del fatto che non abbiamo un adattatore e quindi non possiamo usare il mixer. Siamo seri, serissimi, ma veramente molto seri. E sti cazzi, siamo stati qui un'ora a friculiare, niente, non avevamo l'adattatore e non potevamo collegare il mixer al computer, quindi nifrichiamo. Ebbene, quindi mi sa che è già iniziata la prima fase di figli di... No, rimaniamo seri e vi parliamo di quello che è successo in Indimedia Calabria. È successo che dopo anni, dal 2004 che questo progetto andava avanti, è successo che, come voi ben sapete, il progetto di Indimedia Italia ha subito dei problemi tecnici che hanno impedito per molto tempo di essere online. Ora si sta cercando di ristrutturare un po' tutta Indimedia Italia e soprattutto si stanno raccogliendo dei fondi, quindi chiunque ha intenzione di dare una sua donazione può farlo facendo riferimento al sito di www.italindimedia.org, dove ci sono tutti i dati necessari per fare dei versamenti. Vi saremo sicuramente molto grati di tutto questo. Invece Indimedia Calabria, diciamo che a seguito di una riflessione interna ha deciso di non esistere più come Indimedia Calabria. Sicuramente andremo avanti ognuno di noi con i nostri progetti di informazione indipendente, ma mancano le forze, manca forse anche l'entusiasmo. Non siamo più in grado di portare avanti un progetto del genere come quello di Indimedia, che comunque dicono che va bene, il problema è che non ci sono più forze, non c'è più quel lavoro che fino a qualche tempo fa più o meno ci ha caratterizzato, e quindi ci è parso maturo, ci è parso giusto prendere la decisione di morire. Siamo, ripeto, molto tristi per questo, ma non possiamo fare altrimenti. Però magari per ogni morte, per ogni fine, c'è qualche nuovo inizio, almeno così ci auguriamo. Quindi speriamo soprattutto che il progetto di Indimedia in Italia continui ad esistere, quindi ripeto ancora, donate, andate sul sito di calabriaindimedia.org, scusate, di italindimedia.org, e sicuramente potrete fare i vostri versamenti e Indimedia Italia potrà avere qualche chance di vivere. Ma oltre a tutto ciò non bastano soltanto i fondi, ma è necessario, perché un progetto come Indimedia Italia, come Indimedia in generale viva, è necessaria la partecipazione di tutti, una partecipazione sia a livello tecnico ma anche di contenuti. Indimedia Italia, Indimedia esiste semplicemente se c'è qualcuno che ha voglia di porsi in gioco e di raccontare quello che vede. Indimedia è questo, non è altro. Certo, è un progetto che ormai è abbastanza vecchio, anagraficamente parlando, ma che ancora oggi, malgrado i vari social network che attanagliano le nostre vite, malgrado tutto ciò, probabilmente ha ancora ragione di essere. E dunque, questa era la nostra prima notizia. Una notizia, dicevo, per noi triste, però va bene così, va. Che dobbiamo fare? Intanto ci dicono che le frasi arrivano un po' miscate. Poi ci dicono che mettiamo musica, noi siamo i giovani, bene. Insomma, mi sa che questa puntata di Indie Radio sarà soprattutto figli di. Ma comunque, insomma, intanto in sottofondo state ascoltando gli Alfa Blondi, che a noi piacciono un sacco. Soprattutto questi pezzi che sono cantati in francese, che è una lingua che noi apprezziamo moltissimo. E dunque, vi avevamo promesso che avremmo parlato di problemi relativi alla munnizza in Calabria. E vediamo un po' che cosa sta succedendo. E quindi facciamo riferimento a uno dei nostri siti preferiti in assoluto, che poi alla fine è anche frutto di quell'esperienza di Indie Media Calabria che dicevo prima. Qua, un po', insomma, beh, ce la facciamo sta cosa, va. Dunque, che cosa succede? Succede che in tutta la Calabria c'è questa diffusa emergenza rifiuti, quindi vediamo città, paesi invasi letteralmente, chi più chi meno, dai rifiuti. E questo perché, come al solito, si continua a parlare di emergenze. Questo commissario all'emergenza rifiuti, che è presente in Calabria da oltre 15 anni, non fa altro che creare discariche, ma mai si è visto in Calabria una seria politica dei rifiuti, che parla, non diciamo di rifiuti zero, che magari è un concetto proprio evoluto, ma quantomeno di raccolta differenziata. E invece sì, c'è qualche comune che opera la raccolta differenziata, ma non ci sono le strutture necessarie per riconvertire la spazzatura che viene differenziata dai cittadini, quindi è molto probabile che i cittadini si applichino a differenziare la loro spazzatura e poi questa fa la fine che deve fare, cioè in una bella buca. Bene, l'emergenza dunque continua, però non tutta la Calabria rimane a guardare. Dunque, se difendiamo la Calabria, vediamo che cosa accade. Leggiamo dunque questo articolo che è stato pubblicato lo scorso 8 gennaio, che parla di unità del territorio contro le discariche e le speculazioni private. La determinazione dei sindaci del territorio, da quelli del Basso Ionio che hanno proclamato una manifestazione per domani, cioè il 9 che è già stata, a quello di Cassano che rigetta l'ordinanza d'ufficio del commissario, è un raro segnale positivo, diciamo, nella tormentata vicenda dei rifiuti calabresi e del nostro territorio. Da mesi denunciamo un preciso progetto della speculazione privata dei rifiuti con la connivenza di una parte delle istituzioni regionali per causare lo stato di invivibilità nelle strade ed estorcere al territorio nuovi scempi e nuovi scippi alle casse pubbliche. Tutto questo da aggiungersi a un contesto generale di speculazione energetica, trivelle, chiusure degli ospedali, dei tribunali, abbandono delle ferrovie. È un tentativo estremo di capovolgere l'identità e la vocazione del nostro territorio e trasformarlo definitivamente in discarica e periferia industriale del resto d'Europa. Un progetto di cui sembrano finalmente consapevoli una parte delle istituzioni locali. Sul piano dei rifiuti, da ormai 2 anni chiediamo l'RDT, questo è un comunicato della rete di difesa del territorio franconistico, chiediamo con forza la fine del commissariamento all'emergenza ambientale e le dimissioni di chi non è stato in grado di assumersi le proprie responsabilità per risolvere definitivamente il caso rifiuti calabresi. Si tratta di un caso e non di un problema, in quanto la densità abitativa calabrese permetterebbe di implementare sistemi virtuosi e convenienti con grande facilità, ma la speculazione privata non è estranea a interessi politico-malavitosi, non ha permesso. Oggi le istituzioni regionali hanno intenzione di innescare un meccanismo di guerra tra poveri, lasciando che i comuni si scannino tra loro per trovare una soluzione all'emergenza, un pericolo che dobbiamo scongiurare individuando responsabilità ed obiettivi. Le prime ormai sono chiare. Fra gli obiettivi rilanciamo, in sintonia coi sindaci del Basso Ionio, una parola d'ordine chiara: la gestione dei rifiuti deve essere affidata alle comunità, quindi ai comuni, per uscire dalla morsa della speculazione che i cittadini pagano più volte. Una gestione che non può non convergere su una differenziata spinta finalizzata al ciclo e al riciclo e al riutilizzo. Significa porta a porta e via i cassonetti, significa cooperative giovanili gestite da comuni che passano casa per casa, significa una filiera regionale di riciclo della plastica, del vetro, dell'alluminio, eccetera. In poche parole, significa rispondere rispetto della salute, risparmi per i comuni ed economia per il territorio. Per gestire l'emergenza noi abbiamo proposto ormai dal novembre scorso una via chiara. Gli impianti di trattamento pubblici devono funzionare correttamente ed essere a disposizione del territorio. Non investire in inutili discariche, ma una manutenzione straordinaria ed immediata degli impianti, per esempio quello di Bucita, affinché producano finalmente materiale di qualità e alleggeriscano la quantità di materiale conferito in discarica. Tra 5 mesi, alla scadenza dell'affidamento all'azienda Ecologia Oggi, affidare gli impianti a un'unione di comuni che li gestiscano direttamente in sintonia con la Regione Calabria. Nel frattempo finanziare e obbligare tutti i comuni a realizzare la raccolta differenziata. A queste condizioni, fra 4 mesi saremo fuori dalla finta e criminale emergenza che ci attanaglia da 20 anni, e non ci sarebbe un solo sindaco non disposto a contribuire a questo progetto. Ci auguriamo, diciamo noi, finché invece negli uffici del commissario della regione e di qualche comune si continuerà a tramare in virtù degli interessi di qualche azienda che risponde al momento opportuno e delle precise coordinate elettorali, non si otterrà alcuno sconto e assenso, se non a delle rassegnate dimissioni. Su nuove discariche da spingere sotto il ricatto dell'emergenza non c'è alcuna discussione. Semmai questa emergenza deve chiudere 2 esperienze disastrose, quella del commissariamento e quella delle discariche private. Con questo spirito affiancheremo i sindaci domani, cioè giorno 9. E infatti, e questo era il comunicato della rete di difesa del territorio Franco Nistico, che potete leggere su difendiamolacalabria.org. Dunque, ieri, il 9... cioè 2 giorni fa, scusate, c'è stata questa manifestazione dei sindaci dell'Alto Ionio, che sono partiti da Cariati e poi hanno fatto un comizio e hanno espresso dunque tutte le loro perplessità rispetto a questa crisi. Sicuramente non finisce qui la battaglia contro il commissario all'emergenza ambientale in Calabria, sicuramente non finisce qui la discussione sui rifiuti, e ci saranno probabilmente nei prossimi giorni delle nuove iniziative nelle quali certamente sarà presente la rete difesa del territorio Franco Nistico. E ora, beh, facciamo un po' di pausa, va, concedetemelo, sperando che gradiate, insomma, la nostra selezione musicale degli Alfa Blondi. Rising sun now from Ed eccoci qua, insomma, no, c'è qualche... Ecco qua, c'era un piccolo, una piccola interferenza, ma va bene così, va bene così. Siamo nuovamente qui, state ascoltando su Indie Radio, scusate, state ascoltando su Radio Transizione di Fase Indie Radio, il programma di informazione indipendente. Abbiamo parlato anche prima di problemi relativi all'ambiente in Calabria, ma... continuiamo a parlare sempre di ambiente, ma passiamo dalla monnezza all'acqua. Infatti proprio oggi, questa mattina, alla sala Giuditta Levato del Consiglio regionale, il Forum dei Movimenti per l'Acqua ha presentato la proposta di legge regionale di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione del servizio idrico. Negli ultimi anni, anche in Calabria come nel resto d'Italia, si è diffusa la consapevolezza sociale dei rischi connessi alla mercificazione del bene comune acqua, e dimostrazione nella vittoria del sì al referendum del giugno 2011. 780.000 calabresi, oltre la metà degli aventi diritti al voto, si sono espressi chiaramente contro la privatizzazione del servizio idrico, sostenendo i quesiti referendari promossi dal comitato Due sì per l'acqua bene comune. Ma la politica è sorda e non vuole saperne di dare seguito alla manifesta volontà popolare. In Calabria, con la delibera numero 545 del 10 dicembre scorso, la giunta regionale ha presentato una proposta di legge in materia di risorse idriche, con la quale, sotto la fuorviante dicitura di società di interesse pubblico, intende mantenere la Sorical nella sua attuale forma di società di diritto privato e allo scopo di lucro, nata da una pseudo privatizzazione. In particolare, nella proposta di legge regionale si stabilisce che la Sorical S.p.A. per la gestione operativa può costituire una società mista pubblico-privata, rappresentando tale e quale il carrozzone precedente, con l'unica non irrilevante differenza che per la realizzazione e l'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture, cioè ciò per cui servono i maggiori investimenti, si avrà una in-house, mentre per la gestione operativa, il segmento più allettante, resta tutto come prima. Eppure il giudizio sulla fallimentare esperienza della privatizzazione è unanime. Solo un mese fa, dal dibattito avvenuto nel Consiglio regionale, abbiamo appreso che la multinazionale Veolia non ha mai versato nulla in questi anni e che la Regione Calabria era una mucca da mungere per fare tutto quello che era possibile per favorire il privato, che non era controllato né si faceva controllare, mentre la maggioranza ed opposizione si rimpallavano le responsabilità politiche. Per invertire la rotta e dare seguito alla manifesta volontà dei calabresi, un'ampia coalizione sociale già impegnata a sostegno del referendum del 2011 ha deciso di presentare una legge di iniziativa popolare per fare in modo che in Calabria si realizzi un modello per la gestione... un modello per la gestione del servizio idrico integrato volto al perseguimento degli interessi collettivi e al contempo a ottimizzare le risorse finanziarie disponibili. Dunque oggi è stata depositata la proposta di legge alle ore 11 presso appunto gli uffici del Consiglio regionale della Calabria, e a seguire è stata appunto esposta in una conferenza stampa questa proposta di legge. Dunque speriamo che l'acqua veramente ritorni a essere la gestione delle acque, perché l'acqua è di tutti, invece i sistemi che portano le acque nelle nostre case sono diventati privati e diciamo che nulla funziona molto bene, lo possiamo dire tranquillamente. Probabilmente una gestione pubblica che ponga al primo posto i cittadini e i bisogni dei cittadini e non gli interessi di qualche privato che gestisce queste strutture potrebbe rappresentare un miglioramento delle attuali condizioni di gestione delle acque. Questa dunque è la notizia che il comunicato che abbiamo letto era del coordinamento calabrese acqua pubblica Bruno Arcuri e che noi abbiamo desunto da difendiamolacalabria.org. Insomma, fra poco dovremo cambiare il nostro nome da Indie Radio a difendiamolacalabria.radio.org e va bene così. Ora io direi di ascoltare un altro po' di musica e rimanete sempre all'ascolto di Radio Transizione di Fase, questa è Indie Radio e rimanete all'ascolto dunque. Non cambiate canale che... Ritmo, è piaciuto questo scherzo della salsa, vero? Ebbene sì, questo vuol dire che sta per iniziare, figli di, ma prima, ascoltiamo una canzone seria, questa volta Red Red Wine, che è seria. Thank you. Ed eccoci di nuovo qua, state ascoltando Indie Radio, che viene trasmesso ogni venerdì alle ore 21 su Transizione di Fase, mentre siamo ogni giovedì su, alle ore 18 su Fuori Onda Radio, che potete raggiungere all'indirizzo fuoriondaradio.altervista.org. Bene, so che la qualità della mia voce in questo momento è veramente pessima, provo a fare un'ultima cosa, poi se non funziona questa vuol dire che ciao. Vediamo, forse ora potrebbe, ma no, niente da fare secondo me. E va bene, vorrà dire che i miei scleri saranno più brevi questa sera, anche perché mi trovo in questo momento in uno spazio occupato della città di Cosenza, ovvero le officine Babilonia, che si trovano proprio nel centro della città, vicino Viale, proprio su Viale Parco, ecco. E devo dire che il panorama che ho di fronte a me è abbastanza devastante, nel senso che fa un freddo allucinante. Non ho nemmeno acceso la stufa a legna perché, diciamo, mi seccava, e ho di fronte a me qualche mandarino e altre cose, insomma, tipo c'è scritto Lager su questa cosa rossa che ho vicino a me, ma va bene così. E malgrado tutto ciò, insomma, penso che sia veramente giunto il momento di aprire ufficialmente la rubrica Figli di... Noi ci siamo riproposti di avere degli ospiti in diretta, questa rubrica, solo che ancora niente, l'unico ospite qui presente sono me, medesima me stessa, e va bene, ascolterete le mie stronzate, e grazie lo stesso. Vabbè, in questo numero comunque abbiamo parlato di cose anche un po' tristi, un po' pesanti, monnizze, acqua, eccetera, eccetera, Indie Media che muore, Indie Media Calabria che muore, e va bene così. Ma una cosa cretina, la vogliamo dire, proprio una cosa cretinissima, che è questa notizia che insomma sta girando da ieri, credo, sì, sulla rete e via dicendo, insomma, è una cosa della quale non ce ne frega assolutamente niente, perché anzi non ci sorprende proprio, però la vogliamo dire perché è proprio cretina, insomma, sto fatto di dei grillini che aprono a Casa Pound, bene. Noi non vogliamo né commentare né niente, perché a noi della politica, dei partiti, personalmente non ce ne frega niente, proprio niente, lo diciamo, anzi abbiamo in merito tante idee che piano piano cominceremo a esporre, insomma, da questi microfoni e ovunque sarà possibile, ma non è niente di illecito, semplicemente non andare a votare queste persone, nessuna, ma insomma, questo fatto di Grillo ci fa ridere, insomma, perché magari c'era qualcuno che diceva, ma sai, Grillo però, ma piano piano questi qualcuno che dicevano così si sono ridotti drasticamente di numero, e ora voglio vedere chi è che continuerà a dire, ma sai Grillo, Grillo sto cazzo, apre a Casa Pound, ma ripeto, la cosa non ci sorprende assolutamente, perché Grillo, i grillini, sono semplicemente un movimento, vabbè, loro si chiamano così, si vogliono chiamare, si autoproclamano movimento, ma vabbè, fatti loro. C'è un uso arbitrario della lingua italiana in alcuni casi. E ora aprono ai loro amichetti di Casa Pound, e questo significa semplicemente che sono sia l'uno che l'altro esponenti di quella reazione che si ha nel momento in cui ci sono momenti di crisi come quello che stiamo vivendo, quindi non sono altro che aspetti della stessa medaglia. Noi siamo veramente contenti, Grillo ha fatto bene a dire queste cose perché finalmente ha avuto il coraggio di dire una cosa coerente con se stesso, ed è bravo, quindi bravo, apri a Casa Pound e troverai proprio le porte sfondate, bravo, complimentissimi, guarda, veramente bene. Ora invece un'altra cosa da dire, una piccola pubblicità, la facciamo lo stesso, perché sapete, non ce ne frega niente, insomma. E vogliamo ricordarvi, visto che abbiamo parlato di munnizze, di questioni ambientali, eccetera, eccetera, che il 26 a Cosenza, alle officine Babilonia, ci sarà una bella cosa, sì, e ci sarà Ulderico Pesce col suo spettacolo Asso di Monnezza. Quindi alle ore 21 circa, poi lo sapete che Cosenza, vabbù, ma che ve lo dica a fare, non siamo mai puntuali. E intanto sentite questa bella canzone che, vabbè, non vi dico come è stata declinata nel passato, però un pezzo di questo coretto. E questo pezzo qui, insomma, l'abbiamo dedicato a una nostra cara amica che non so se ci sta ascoltando, nel caso riconoscerai sicuramente la canzone, quindi tanti saluti. Quindi stiamo proprio andando veramente da pubblicità proprio palesi del 26 a Cosenza, sul Dirico Pesce, con lo spettacolo Asso di Monnezza alle ore 21 alle Officine Babilone di Cosenza. Passiamo alle dediche, insomma. No, questo è veramente un asso nella manica, insomma, la nostra follia che ci contraddistingue, ci spiace semplicemente di avere questi problemi tecnici, ma vi promettiamo che prima o poi li risolveremo. Questa sera, ripeto, è stata colpa di un cazzo di cavetto che non abbiamo con noi, cioè proprio non ce l'abbiamo né a casa né da nessuna parte, non lo possediamo. Cercavamo un altro mixer, ma st'altro cazzo di mixer tutto scasciato, del quale funziona un solo canale o due, non è qui in questo momento, quindi io prego chi lo ha utilizzato di riportarlo qui alle Officine Babilonia, perché serve a tutti. E dopo questo proprio appello personalissimo, riportate un mixer, se no cacci su problemi. Come vi dico, bello bello. Dopo questo, questa intimazione nemmeno troppo velata, che cosa possiamo dire altro? Beh, ripeto, stiamo scattando, proprio scattando di freddo. Mo accendo la stufa, sì o no? Ormai non è il caso, non è il caso. Quindi è il caso di continuare ad ascoltare magari un po' di Alfa Blondi, ma non so. Intanto, un'altra informazione proprio fondamentale, ma veramente fondamentale. Oggi siamo arrivati qui alle Officine Babilonia, abbiamo trovato proprio allagato, cioè il cesso si è definitivamente scasciato, quindi non possiamo neanche andare al bagno volendo, e ne avremo anche necessità, devo dire, a costo freddo. Niente, il cesso delle officine per l'ennesima volta si è inceppato, ma io vorrei sapere come cazzo è sto fatta. Voglia che abbiamo cercato con prodotti chimici super velenosi di rimediare, niente, non c'è stato niente da fare. Il cesso delle Officine Babilonia è ufficialmente fuori uso, proprio esce acqua, diciamo, di fogna, e abbiamo dovuto pulire tutta la porcheria che c'era in terra. È stato molto divertente, devo dire, ma gli spazi occupati sono anche questo, sono anche un cesso che si scascia nel cuore della notte, tu non lo sai, arrivi il giorno dopo e trovi il bordello. Benissimo, va bene così. Beh, io direi che un'altra canzoncina magari, e poi l'ultima ciotia, e poi stoppiamo qui, insomma. Sì, io direi di sì. Ora, se sono in grado, vi dirò anche che cosa state per ascoltare. Ma magari possiamo anche... Ah sì, ma sempre Alfa Blondi, ma sapimo. Vediamo un po' se troviamo un'altra canzoncina simpatica. Magari Diaframma, giusto per ammupiarci una poco, no? Oppure... niente, ho trovato una bella canzoncina proprio per noi, che è uno dei miei gruppi preferiti, che proprio sono sciollati più di me, quindi perciò mi stanno molto simpatici, dell'Officina della Camomilla. A breve uscirà il suo primo disco, quindi è una cosa importante. Officina della Camomilla, che fra l'altro è stata anche qui alle Officine di Babilonia durante una bella festa nerd che abbiamo fatto a maggio, il 14 maggio se non ricordo male. Quindi dopo questo core degli Alfa Blondi, ascoltiamo Officina della Camomilla. Mo sto cercando proprio il pezzo più carino, vediamo un po' che cosa possiamo anteprima, che dice, no, vediamo un po', oh, vediamo qua, ecco qua l'Officina della Camomilla. E qua abbiamo sbagliato, perché questa è una cover, vogliamo farvi sentire proprio l'Officina vera e proprio. Vediamo se è questa quella giusta. Stiamo facendo proprio una... Ecco qua, sì. Piera legge la mano alla cassiera e si succhia le gocce sulle punte. Ha fatto solo un giro, non ha comprato niente. Niente, solo una penna per me, che Piera non porta carta, Piera non porta penna, non ha bisogno di scrivere. perché lei sa che è una poesia con le scarpe. Salta la scuola, e Piera salta la rete. Piera è bionda ma è mora, ha un colle di grato di viola. Sugli sbadigli, specchia la luna e si veste di cobalto. Piera non ha mai caldo, quando ride, ingoia l'universo. Ha la cenere sulle labbra, perché Piera mi brucia, ti brucia, Piera ci brucia. Piera muore se non le parli e se le calpesti l'ombra. Piera è attenta, ti guarda due volte e poi ti chiama. Piera non ama, Piera vive, si vive tutto, mi vive, ti vive, ci vive, mi sbrana l'esistenza. Ad ogni suo grido è un temporale nelle mie tempie. Quando dice che sazia, beve ancora due dei miei colori. Piera lo sa che se se ne va con la mia spada arrotondata, non tornerà. Piera, arriverà il giorno delle formiche anche per te. Piera, arriverà il giorno delle formiche anche per te. Piera, arriverà il giorno delle formiche anche per te. Oh, è veramente dopo questa dopo questa canzone dell'Officina della Camomilla, che sicuramente sarebbe fierissima di ascoltare, insomma, questa trasmissione, che secondo me è proprio consona, ecco. E dopo questa, intanto continui in sottofondo se forse riuscite a sentirla, sempre l'Officina della Camomilla. Ecco, io direi che è giunto il momento tanto atteso di salutarvi. Dobbiamo farlo, siamo costretti per un motivo veramente molto serio e valido. Dobbiamo andare al bagno e, come vi ho detto, alle officine il bagno è scassato, quindi secondo me apriremo la porta e usciremo fuori, non lo so. Sì, dietro alle officine c'è un posto adeguato per... Anche se ci sono dei cazzi di cretini, scusate il termine, che ci vanno a buttare le siringhe, ma sono proprio deficienti. E quindi dobbiamo andare lì con le pinze a prendere sti cazzi di siringhe, ma dico io, insomma. Cioè, io non sono d'accordo, non fatevi, ve lo devo dire. Ma se proprio volete farvi, buttate le caspite di siringhe in un posto, non mentre una via. Siete proprio deficienti, scusate. Sono incazzata per questa cosa. Molto. E volete farvi i cazzi vostri, la vita è vostra, io non sono nessuno per dirvelo, però nemmeno voi siete nessuno per impormi il vostro la vostra siringa mezzo una via, insomma, avanza la porta da casa, si può dire. Oh, non è giusta questa cosa, ecco. Bene, dopo questo appello ai tossici che vengono a bucarsi qui, direi che è veramente tutto, anche perché ve lo dicevo, ve lo preannunciavo, devo andare al bagno e devo andare fuori da qualche parte. E quindi niente, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per aver avuto la pazienza di ascoltare questa trasmissione veramente molto molto molto molto molto traballante, che comunque si chiama Indie Radio, un programma di informazione indipendente. Questo però è lo spazio, l'angolo della ciotia che abbiamo chiamato Figli di, perché ci chiamiamo così non ce lo chiedete, ma c'è una lunghissima storia dietro questa dicitura. E dunque, bene, vi saluto e vi do appuntamento sempre qui su Radio Transizione di Fase ogni venerdì alle ore 21. Mentre potete ascoltare sempre Transizione di Fase su Radio Fuori Onda Radio, che potete raggiungere all'indirizzo fuoriondaradio.altervista.org ogni giovedì alle ore 18. Mo mi stavo pure confondendo sugli orari, brava, mi faccio i complimenti, brava. Benissimo, è veramente giunta l'ora di... è giunta l'ora, padre, per noi e tuoi fratelli hai detto che... Com'è tremenda la musica delle chiese che ti rimane nelle orecchie anche se tu non vorresti, ma continui a sentire sta caspita di canzoncina nelle orecchie. È giunta l'ora, padre, per noi. È giunta l'ora di andare a pisciare, insomma. Bene, grazie, vi ringrazio tutti per averci ascoltato. E intanto... Questi sono un gruppo giapponese di musica giapponese. Chi dice che la musica giapponese non è bella è perché non ascolta questa musica. E come voi sapete, magari, i miei affezionati ascoltatori, lo scorso anno Figli di, che era una programma indipendente rispetto a Indie Media, ha dedicato proprio un'intera puntata alla musica giapponese. Una grande soddisfazione per noi che ammiriamo questo genere. Bene, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima volta. Ciao ciao ciao ciao. Intanto vi faccio ascoltare questa canzone finale. Ciao. E questa era Indie Radio, appuntamento al prossimo venerdì su Radio Transizione di Fase alle ore 21, mentre alle ore 18 di giovedì potete ascoltarci su Fuori Onda Radio. E mo veramente basta, ciao davvero, ciao ciao ciao ciao. E anche se mo parte un'altra canzone che non ne diciamo niente, vabbè, ma va bene, che era la vecchia sigla di Fuori di Figli di... questa era anche bella. sempre dei pillows. Ma va bene, mo basta, perché insomma, mo basta, delle nostre vite decidiamo noi, basta. Fatemi trovare la cosa, che sennò qua... Ecco qua. Ciao ciao. Ma siamo connessi ancora? Sì, siamo connessi, bene, ciao.